Contemporaneamente il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite Buddha, venerato Sri Krishna, tratto su vista il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, come deve addestrarsi un figlio di un lignaggio che decide di impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò e il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara rispose: allora venerabile figlio di Sarasvata, Shariputra, ogni figlio figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo: apprendendo correttamente e ripetutamente anche cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo, sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazioni, né fattori di composizione né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, l'estinzione dell'ignoranza, fino ad includere vecchiaia e morte, e l'estinzione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più ispirazione e senza paura. Essendo completamente andate al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il Nirvana, e affidandosi alla perfezione della saggezza, evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati all'insoppassabile perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è forte, dovrebbe essere conosciuto come quello. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Vaiyata, gati, paragati, parasangati, bodhisattva. Shariputra, in questo modo che il Bodhisattva non Mahasattva, ma dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan emerge da quel samadhi e dello già il Bodhisattva non Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, dicendo: ben detto, ben detto, figlio del lignaggio. È proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, perfine spiegata nel giudizio. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva non Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'intera assemblea attorno a loro, insieme al mondo degli dei umani, semidei e Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Cercare di generare la motivazione la più elevata, no? La mente di Bodhicitta, che è il desiderio di ottenere lo stato di Buddha, che è per il più grande beneficio di essere senzienti. Quelli che ancora non sanno cosa significa, cioè che hanno difficoltà a concettualizzare cos'è lo stato di Buddha, allora possono solo c'è anche un generale desiderio, cioè, per questa motivazione che vengono qui, ascoltano questi insegnamenti, fanno tutti questi vari sforzi per fare in modo che la propria mente diventi una fonte di felicità per se stessi, ma anche per gli altri. Che la propria mente diventa una fonte di benessere e di pace per gli altri. Questo è lo scopo con il quale ci ritroviamo insieme qui. Quindi si dovrebbe, per gli studenti che cominciano quindi ad avere familiarità con queste cose, che hanno appreso queste letture dall'inizio, queste varie discussioni che ho fatto insieme dall'inizio, dovrebbero cercare di incorporare le vari punti del sentiero, generando la propria motivazione, così hanno anche una panoramica, no? Quindi si dovrebbe per primo pensare che siamo molto fortunati, perché anche oggi siamo ancora in vita, quindi siamo molto fortunati, molti esseri sono, se guardiamo gli esseri umani su questa terra, molti, molti sono morti oggi, che hanno lasciato il loro corpo, quindi noi siamo ancora in vita, quindi abbiamo. Siamo anche molto fortunati perché abbiamo la preziosa rinascita umana, quindi anche oggi abbiamo la capacità di, la possibilità di estrarre l'essenza di questa preziosa rinascita umana, quindi di cercare di eliminare l'ignoranza, i difetti della mente, sviluppare qualità. Abbiamo la possibilità di riflettere su questi insegnamenti che sono una fonte di felicità, che quindi dovrebbe pensare in quel modo. Poi si dovrebbe pensare che comunque questa fortuna che abbiamo non durerà per molto tempo, infatti dobbiamo morire, non sappiamo, abbiamo visto, non sappiamo quando andremo a morire, quindi non c'è molto tempo da perdere, okay? Poi si dovrebbe prendere in considerazione che le proprie virtù sono molto deboli, sono pochi. Invece le azioni non virtuose sono molti, sono molto numerose, quindi c'è grande possibilità perché alla fine di questa vita c'è possibilità di incontrare quelle esperienze di difficoltà, di sofferenza, quindi ok, diciamo, siamo arrivati a questo punto, okay? Quindi si dovrebbe generare questa motivazione, quindi dopo questo ci sarà l'insegnamento sul rifugio, quindi avremo la risposta alla pacificazione di queste paure, di queste angosce, no? Del non incontrare sofferenza nel futuro. E quindi dopo potremo superimporre i vari livelli di motivazione di rifugio su queste comprensioni. Okay? Quindi cerchiamo di avere questa attitudine, okay? Che siamo qui per fare che questa mente diventi una fonte di benessere e di felicità. Non soltanto per noi, ma anche per gli altri. Okay? Quindi rispetto al nostro testo, siamo sempre nell'essere di motivazione iniziale. Abbiamo visto che l'essere di contemplazione, l'insegnamento dell'essere di motivazione iniziale si divide in due. Abbiamo l'insegnamento di contemplazione sul generare il desiderio di sperimentare felicità nella vita futura. E abbiamo l'altra, la seconda metà che è il metodo per effettivamente sperimentare la felicità della vita futura. E stiamo finendo questa prima sezione, ok? Quindi all'interno di questa prima sezione, che è il generare il desiderio di sperimentare la felicità nella vita futura, abbiamo due contemplazioni, quello che riguarda lo sviluppo della consapevolezza della morte e dell'impermanenza, e quello che riguarda la contemplazione dei stati di sofferenza verso le quali eventualmente ci possiamo indirizzare, perché quando si muore, no? Sono due possibilità, non tre, non quattro, due. O si sperimenta dopo questa vita uno stato di benessere, okay? Fortunato come quello umano, o si sperimenta stati di sofferenza, okay? Come quelli che abbiamo visto, no? La settimana scorsa. Quindi abbiamo contemplato brevemente la sofferenza che esiste negli stati infernali, abbiamo visto inferni freddi, inferni caldi, abbiamo visto anche la sofferenza che può essere sperimentata nello stato animale e dobbiamo finire con la contemplazione della sofferenza che esiste nel livello dei spiriti famelici. Okay? Quindi questa è questa terza divisione dei stati sfortunati che compongono il reame del desiderio. Il reame del desiderio è quindi diviso partendo dal basso, andando verso l'alto, abbiamo gli stati infernali, abbiamo gli spiriti famelici, abbiamo gli animali, abbiamo gli esseri umani, dopo abbiamo i semidei e abbiamo i deva o i dei, che hanno sei divisioni. Okay? Questo è per le ali del desiderio. Poi abbiamo visto sopra, abbiamo la camera della forma, dove la mente nell'entità di una stabilità meditativa, okay? E dopo abbiamo il realm del senza forma, okay? Quindi noi siamo il realm del desiderio. Cosa significa? Significa che la mente è vincolata dall'attaccamento, okay? Dall'attaccamento e dell'avversione, particolarmente dall'attaccamento, nel senso che la mente, cioè le varie coscienze sensoriali, hanno sete per il contatto con gli oggetti piacevoli dei sensi. Quindi abbiamo forme visive, abbiamo oggetti tattili, abbiamo i suoni, abbiamo gli odori e abbiamo i sapori. Quindi la mente cioè è sempre alla ricerca di queste cose. Infatti, per noi esseri ordinari, che non hanno ancora sviluppato una grande saggezza, ricerchiamo la felicità esclusivamente tramite questi sei oggetti, questi cinque oggetti, esclusivamente. E possiamo dire che non funziona bene. Okay? Non funziona bene. Okay? Vedremo più avanti il perché, di queste cose, la limitatezza di questa ricerca e la limitatezza anche di questi oggetti. Quindi, prima di andare avanti, volevo sapere se ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo coperto fin d'ora. Come di solito non ci sono domande. Sì, ce n'è una. Grazie. Ok, vai. Volevo sapere se gli inferni possono essere solo considerati come qualcosa di esterno oppure anche come condizioni interne della mente, perché in questo secondo caso lo capisco di più, nel primo caso meno. Sì, quindi sì, allora ci sono certe persone sì, che hanno spiegato, che hanno interpretato le scritture dicendo che sono stati mentali, quindi forme, menti, stati psicologici. No, sono dimensioni esterne dove la persona è effettivamente proiettata in queste dimensioni. Ah, quindi cinque, non hanno cinque aggregati come noi adesso abbiamo creato le cause per sperimentare l'esistenza umana. Quindi questo significa che viviamo in un ambiente umano, abbiamo delle esperienze umane, abbiamo un corpo umano e abbiamo una mente umana. Okay? Quando le azioni cioè pervase dall'odio, pervase dalla collera, da queste attività mentali estremamente pesanti dell'uccidere, no? Allora un potenziale viene creato, no? Un potenziale di sofferenza automaticamente. E la persona quindi prende rinascita in un ambiente che corrisponde a questa dimensione mentale, eh? Che corrisponde quindi che è il riflesso di questa dimensione mentale. Quindi c'è un ambiente infernale. C'è una mente infernale e un corpo infernale, come l'esperienza infernale. Non dovete pensare che è un essere umano che va proiettato in quell'ambiente. Cioè, tutto è diverso, la mente, la dinamica della mente, il corpo è diverso e le esperienze sono diverse, perché tutto è un sorgere dipendente, no? Il nostro essere umano dipende da cause in condizione, quindi è un risultato. Questo risultato avrà una fine. Perché? Perché avrà una fine? Semplicemente perché dipende da causa e condizione. Quindi queste cause e condizioni, quando vengono questo potenziale, queste cause, quando arrivano alla fine, no? A estinzione, come una macchina che non ha più carburante, si ferma, allora qualcos'altro segue, un'altra esperienza segue, anche questa prodotta da causa e condizione. Quindi, sì, abbiamo in questa vita prodotto le cause per sperimentare l'esistenza umana, l'esperienza umana, la forma umana, di mente, di corpo. Allora, va bene, non c'è problema. Però, nelle nostre azioni, il problema è che abbiamo creato anche molte cause per sperimentare stati di sofferenza, ok? Stati di sofferenza. Quindi, dobbiamo cercare di pensare che tutto è un sorgere dipendente, tutto dipende da cause e condizioni. E questo è un'esperienza, questo dipende da cause e condizioni, no? Quando il potenziale arriva alla fine, si esaurisce, no? Allora ci sarà un'altra esperienza. Sono dimensioni esterne, mi dispiace. Ok. Pagina 34, quindi contempla la sofferenza degli spiriti famelici. Allora, avete visto, no? All'inizio li ho menzionati in quest'ordine. Cioè abbiamo gli inferni, Narak, poi abbiamo ho presentato gli spiriti famelici e dopo gli animali. Invece nell'Anrim l'ordine è diverso. Abbiamo invece i Narak, okay, gli animali e perfino gli spiriti famelici. Allora questi due ordini vanno bene, dipendono come guardiamo le cose. Se guardiamo le cose dal punto di vista della sofferenza, allora la sofferenza è la più pesante, è quella nei rami infernali, seguita da gli spiriti famelici e poi dagli animali. Okay? Gli animali quindi hanno un livello di sofferenza inferiore a quello dei spiriti famelici. Però se guardiamo le cose dal punto di vista del Dharma o della possibilità di creare cause per sperimentare felicità futura, eccetera, allora dobbiamo presentare per prima i Narak, dopo gli animali e perfino gli spiriti famelici, perché esiste una certa libertà in questo realm che non hanno gli animali, nel senso che lo vedremo adesso. Okay? Quindi sì, per favore, puoi incominciare a leggere. Vi sono tre classi di spiriti famelici. Primo, coloro con oscurazioni esterne. Quando, vedendo un frutto su di un albero, un fiume e così via, essi vanno per assaporarlo, ma soffrono in quanto esso è protetto da esseri che maneggiano armi o a causa di considerarlo pus, sangue e così via. Vai. Due, coloro con oscurazioni interne, le cose che essi desiderano, l'acqua, la vegetazione e così via della città chiamata Kapilavastu, non esistendo del tutto. Essi colà non trovano cibo e bevande, anche se ne trovano un po', essendo le loro bocche simili alla cruna di un ago, i loro colli simili alla coda di un cavallo, i loro stomaci simili al monte Meru, i loro arti simili a steli, il cibo non va bene per loro, per le loro bocche. Oppure, pur essendo entrato molto poco, non passa attraverso le loro gole. Oppure, anche se viene ingoiato, essi soffrono in quanto non riempiono i loro stomaci. Coloro con oscurazioni verso il cibo e le bevande. Il cibo e le bevande prendono fuoco, bruciano i loro corpi ed essi sono avviliti a causa di mangiare su di sciumi la loro propria carne. In aggiunta, il tocco della luna in primavera li scotta, mentre il sole d'inverno li gela. Solamente attraverso il loro sguardo fisso i fiumi si prosciugano e gli appaiono essere burroni. La sofferenza dovuta alla fame e alla sete è difficile da sopportare. La durata della loro vita viene spiegata essere di 15.000 anni umani e così via. Si mediti su questo fino a quanto sorge l'intensa disperazione dell'emersione definitiva. Se il significato venisse completamente sintetizzato è come segue. Poiché viene stabilito tramite un percettore diretto il fatto che, per esempio, se la propria mano venisse messa in una buca di fuoco per il tempo necessario a bere una tazza colma di tè, o se si stesse nudi anche solo per un giorno di un freddo d'inverno, o se si stesse senza cibo e bevande anche solo per 3 o 4 giorni, oppure se si dovesse restare sotto una pila di terra e molte pietre, senza la possibilità di muoversi non si sarebbe in grado di tollerare ciò. Come vi si potrebbe sopportare la sofferenza delle tre trasmigrazioni negative? Il professore Nagarjuna dice: quando il corpo umano, diciamo viva, difficile da ottenersi, è stato ottenuto, lo si usi assiduamente per recidere le cause delle trasmigrazioni negative. Si colpisca continuamente se stessi con una frusta che pensa. Proprio ora, nel momento in cui sono un essere umano differenziabile da un animale, devo generare coraggio. Grazie. Ok, quindi per ciò che riguarda, brevemente, no? Per ciò che riguarda la sofferenza, quindi dei spiriti famelici, principalmente quindi loro soffrono, soffrono del caldo intenso, del freddo intenso, di una fame intensa, di una sete intensa, di un grande fatica, grande stanchezza e grande paura. Queste sono in generale, no? Sono caratterizzate da questo. E poi possiamo distinguere tre classi, gli spiriti famelici è un tipo di, in tibetano si chiamano preta, un tipo di spiriti, sono molti, molti, molti tipi, però possiamo distinguere, possiamo estrarre queste tre suddivisioni che sono principalmente quelle caratterizzate da grande sofferenza, no? Quindi abbiamo tre suddivisioni, quelli che hanno ostacoli esterni, quelli che hanno ostacoli interni e quelli che hanno entrambi, ostacoli interni e esterni. Quelli che hanno ostacoli esterni hanno ostacoli rispetto al cibo, nel senso che, bene, quindi dobbiamo capire che la causa, per prendere rinascita in quel tipo di reame principalmente è, l'avarizia. Ok? L'avarizia, grande avarizia e grande, invidia, avarizia. Ok? L'essere completamente anche incapace di condividere le cose. Quindi, sì, la brama, anche, ovviamente anche la brama. Okay? Quindi, in questo stato, gli esseri hanno quindi, un ambiente, anche se certi, allora abbiamo certi che dividono il nostro ambiente e altri invece che hanno un ambiente che è proprio loro, no? Insomma, molto ai deserti, c'è niente. Non c'è niente da mangiare, non c'è niente da bere. Inverno, inverno c'è un freddo intenso, che come viene descritto qui anche la luce solare è gelata, ed estate, c'è un caldo intenso e anche di notte la luce lunare scotta. Quindi questa è la loro esperienza. Quindi sono sempre l'unica preoccupazione che hanno, l'unica, sono focalizzati perché è quello che manca. È trovare da bere e da mangiare. Non c'è spazio per nient'altro, o quasi, quasi. Quindi sono sempre quindi, andando in giro a cercare qualcosa per pacificare questa sofferenza intensa della fame e della sete e anche trovare un posto dove si possono essere al riparo del caldo e del freddo. Quindi per quelli che hanno ostacoli esterni, loro sono in grado, quindi a distanza, di percepire del cibo, no? Percepire del cibo tipo degli alberi come le frutte o un lago o qualcosa, no? E quindi ci arrivano con grande fatica perché l'ambiente è molto difficile, c'è questo caldo intenso, arrivano vicino e allora hanno visto che hanno questi ostacoli interni, incontrano delle persone che gli impediscono di utilizzare o l'acqua o il cibo, ok? O dal potere del karma, del loro karma, il loro karma è così depauperato di meriti che quando arrivano vicino a quel posto diventa impossibile da consumare. Cioè, la cosa cioè gli alberi si asseccano, o la frutta si assecca, o cioè l'acqua si trasforma in una sostanza inutilizzabile, o si asciuga. Okay? Quindi questo sono quelli che hanno ostacoli esterni. Rispetto a quelli che hanno ostacoli interni, allora loro riescono a trovare, casomai, cioè, con grande fatica, riescono a trovare delle cose da mangiare, no? Di povera qualità, però dovuto alla loro apparenza fisica non sono in grado di utilizzarlo. Per esempio, trovano un pezzo di cibo, però dovuto alla configurazione della loro gola o della loro bocca, che la bocca che è così stretta che non riescono a metterlo dentro. Quindi c'è una grande frustrazione nel continuum di queste persone, di questi esseri, no? E per quelli invece sono anche quelli che hanno ossia riescono a metterlo in bocca, rimane bloccato a livello della gola, perché la gola è molto stretta, no? Non sono fatti come noi, è molto stretta. E poi sono quelli che hanno ostacoli interni, cioè interni e esterni, entrambi. Quindi loro quando riescono, quindi sono ridotti a mangiare, perché l'unica cosa che trovano, pezzi di escrementi o cose del genere, no? E anche se trovano un po' di cibo, se lo mettono, lo ingeriscono, okay? E questo crea dei grandi dolori, no? Allo stomaco, queste cose. Quindi questo è lo stato di questi esseri. Allora, son certi. Certi che hanno varie ricchezze, anche sono certi di questi preta che hanno anche delle ricchezze, certi che hanno anche i poteri di chiarveggenza, eccetera, contaminati, quindi possono o danneggiare o aiutare anche gli esseri umani. Sono certi anche che seguono gli insegnamenti, praticano il Dharma. Ecco perché viene messo, guardiamo le cose da quest'angolo, vengono classificati dopo gli esseri umani, invece di mettere gli animali, vengono messi dopo, perché certi hanno la possibilità di ascoltare insegnamenti e quindi di produrre cause di felicità futura, nonostante le loro esperienze di sofferenza. Quindi cosa ci dice l'autore? L'autore ci dice che adesso che siamo esseri umani, dobbiamo, quindi il modo di contemplare, ci spiega il modo di contemplare, non questo, in questo penultimo paragrafo, dice che dobbiamo riflettere e pensare quale sarebbe il nostro stato, quindi la nostra esperienza, sì, anche mettiamo la mano nel fuoco solo per il tempo che prende per bere una tazza di tè. O se ci ritroviamo nudi un solo giorno nel freddo invernale, no? O anche privo di cibo e di bevande per solo 4 giorni. Quindi anche se sì, queste esperienze sono molto breve e di intensità ridotte rispetto a quelli che sono sperimentati da questi esseri nel loro vario ambiente, la sofferenza è comunque insopportabile, insopportabile, ok? Quindi, questo è il modo di meditare, quindi dobbiamo, l'ho accennato l'altra volta, questo il modo di riflettere, non è, il modo di meditare non è di osservare, di essere il testimone di questo, ma di immaginare che abbiamo preso tale tipo di rinascita, okay, e che speriamo queste varie sofferenze generali e particolari di queste realtà, e capire che non saremo in grado di sopportarlo. E quindi generare il timore di sperimentare queste cose alla fine di questa vita, fine di questa vita, ok? E lo scopo quindi è di lasciare spazio, di lasciare spazio dopo alla presa di rifugio e quindi a una modificazione del proprio comportamento, all'eliminazione delle cause della sofferenza e alla produzione delle cause della felicità. Quindi questo ci aiuta a muovere la mente verso nuove attitudini. Quindi dice l'abbandono, incomincia adesso l'abbandono, con queste contemplazioni promuovono l'abbandono delle cause della sofferenza futura. Okay? Quindi, come dice, no? Adesso che siamo umani, ci dovremmo ripetere sempre, no? Che abbiamo il potenziale, abbiamo le condizioni per evitare queste sofferenze future e per produrre le cause della felicità futura così tanto desiderata. Questo è il momento, quindi dobbiamo sfruttare questa opportunità che abbiamo. Domande? Io non ti ho sentito molto, purtroppo, quindi l'hai già detto, ma dove sono questi esseri fonetici? Sì. Come l'ho detto, hanno la loro propria dimensione di esistenza. Dove? Sì, mi chiedo dove, sì, non so. Dove? Cioè, poi in un La posto fine tipo no, giri a parliamo sinistra, dopo a destra. qualcuno che vive nelle foreste, no? No, no, hanno un ambiente, queste sono dimensioni, no? Sono delle dimensioni di esistenza, quindi possono essere lì, che ne so, sono dimensioni di esistenza, ok? E certi condividono anche, ci sono una divisione particolare che, diciamo che, condivide il nostro ambiente, ok? Allora, certe persone hanno la capacità di percepire, ok? Non so se avete già incontrato, ma ci sono anche delle persone che vedono i spiriti, quelli che ci possono anche parlare. Non c'è bisogno di andare nel buddismo, ma questo esiste in tutte le culture. Questi sono dei preta, è una suddivisione di questi. Okay? Non so se sono quelli con ostacoli esterni, interni, cioè non penso che sono quelli con ostacoli interni, esterni. Devono essere suddivisioni di quello che erano ostacoli esterni, penso. Questa è la mia interpretazione. Però così, quindi sono dimensioni di esistenza, nello stesso modo dove sono gli esseri negli inferni freddi, negli inferni caldi, non so, sono dimensioni di esistenza, io non ho queste percezioni, però sapete che ci sono gli esseri che sono certi esseri con la coscienza, no? Molto più sviluppata, perché noi siamo a livello, siamo dei, abbiamo una coscienza mentale che è a livello, cioè, cioè è poco sviluppata, diciamo, la nostra coscienza mentale, le nostre percezioni, anche la nostra intelligenza. A molte di noi forse pensano essere intelligenti, eccetera, però abbiamo una grande confusione rispetto a molti oggetti, abbiamo tanta ignoranza. quindi la nostra mente è molto limitata. Quindi semplicemente il fatto di non conoscere qualcosa, questo non giustifica la sua non esistenza. Quindi sono persone che sono in grado di percepire queste cose, che sono in grado di vedere esattamente come ci vediamo, ma noi sono in grado di vedere questi esseri. E noi possiamo aiutarli. Allora, dopo sì, ci sono delle pratiche per beneficiare questi esseri. Quelle degli inferni non le possiamo beneficiare al nostro livello, gli animali le possiamo beneficiare sicuramente dando cibo, aiuto, eccetera. E anche i preta, ci sono delle pratiche per dare cibo e bevande a questi esseri. Sì. Non so se avete già visto la mazzoppa quando viene all'istituto, però lui ogni giorno fa queste cose, no? Ha delle recitazioni particolari. Cioè, utilizza acqua, acqua e cibo, eccetera, biscotti, pane, è in grado di cibare questi esseri, sì. Sono delle situazioni particolari, ovviamente c'è anche il potere della concentrazione che aiuta. Ok, quindi adesso entriamo nella seconda sezione, nella seconda, sì, ascolta. Vorrei sapere quali sono ostacoli interni. Allora, ostacoli interni dipendono dalla propria morfologia di questi esseri, ok? Quindi loro riescono a trovare del cibo, però dovuto alla loro anatomia, dici così anatomia? Sì. Sì. Per esempio la gola che è così stretta o la bocca così piccola che non riescono a ingerire il cibo. Questi sono ostacoli interni. Io pensavo, siccome ostacoli esterni era avarizia, brama, invidia, pensavo che ci sono le cause nella vostra vita per rinascere come nella seconda classe di questi spiriti famelici. No, no, allora per le tre classi, la causa è l'avarizia, la brama, per le tre. Poi dipende dall'intensità. Allora abbiamo intensità di sofferenza o delle classi diverse, perché per esempio la terza ha più sofferenza che la seconda e la seconda ha più sofferenza che la prima. Quindi dipende anche delle nostre azioni, no? Delle nostre azioni o dell'intensità delle nostre azioni mentali. Quindi sì, ok, va bene? Scusa, prima hai detto che noi cerchiamo la felicità attraverso i cinque sensi, gli Gli oggetti dei sensi. oggetti dei sensi. Non la ricerchiamo anche attraverso la mente? Le coscienze sensoriali sono menti, nel senso che chi fa l'esperienza degli oggetti dei sensi sono le coscienze sensoriali. Quindi certo, se non c'è la mente non c'è l'esperienza dell'oggetto. Forse se mi puoi chiarire. Sì. No, al di fuori, cioè attraverso delle idee, oppure Sì, è un modo certo. sbagliato di ragionare, oppure cioè, una certa idea può darmi felicità se io Sì, la però in generale, raggiungo. certo che noi concettualizziamo molto, anche per noi è anche un problema questa concettualizzazione, ma in generale questa concettualizzazione, abbiamo tutti un'idea di ciò che è la felicità, no? L'idea di ciò che è la felicità. Quindi in generale pensiamo, e quindi la nostra vita è il come si dice? To pursue, come si dice? È andare nella direzione di quest'idea per concretizzare la nostra idea della felicità. Però se guardiamo in come si concretizza quest'idea di felicità è all'interno di situazioni esterne, è tramite situazioni esterne, possedimenti, situazioni sociali, eccetera. Questa, diciamo, è la concretizzazione, scusate, della nostra attività mentale, della nostra concettualizzazione, del nostro modo di concepire, diciamo, la felicità. Ma certo che all'inizio di tutto c'è la mente, nel senso che c'è la motivazione. Avevamo detto, no, poche sessioni fa, che tutte le varie scelte che facciamo nella nostra vita, no? Dalla minima a così insignificante a quella più pesante, no? Come cambiamento di stile di vita, rimesso dove ci si ribalta, no? Tutta la propria esistenza, ma anche il cambiamento cambiare occhiali, cambiare pettinatura, no? Questo è perché dietro pensiamo che in quel modo saremo più in contatto con la felicità, no? Però per noi la felicità si ricerca principalmente tramite condizioni esterne, mettiamola così, condizioni esterne. Non, nel buddismo la felicità non esiste nelle condizioni esterne o non dipende esclusivamente dalle condizioni esterne, ma il come la mente si relaziona con queste condizioni esterne, con queste varie persone, situazioni e oggetti. Non dipende dall'oggetto, ma come la mente si relaziona rispetto all'oggetto, alla situazione. Quindi pensiamo che un addestramento della mente, no? Un riaddestrare, un riaggiustare la mente, perché il suo modo di funzionare crea sofferenza, quindi un rieducare la mente pacifica la difficoltà, pacifica la sofferenza fino all'eliminazione completa. Questo diciamo è il punto. Non so se ho risposto alla. Quindi alla base di tutto, per esempio, c'è un fraintendimento della realtà. Okay? Abbiamo questa distorsione della realtà che è una reificazione dell'esistenza. Pensiamo che i fenomeni, mi spiego, pensiamo che i fenomeni hanno delle esistenze di per sé, che la persona esiste di per sé, nel suo proprio potere, che gli oggetti esistono oggettivamente, che hanno delle caratteristiche oggettive, intrinseche, no? Che ci sono certi oggetti, certe situazioni, certe persone che sono del loro proprio lato piacevole o da ottenere, invece altri oggetti, altre situazioni che dal loro proprio lato hanno caratteristiche di sgradevolezza, eccetera. E quindi, visto che abbiamo questa apparenza, e che la mente crea in questa apparenza, allora abbiamo queste risposte logiche che sono che sono quelle dell'attaccamento verso ciò che è piacevole e dell'avversione verso ciò che è spiacevole. E in questo modo si accumulano delle azioni che sono quindi alla base erronee, perché sono comunque sono contaminate, mettiamole così, le azioni sono contaminate perché sono comunque motivati dall'ignoranza dell'afflizione e in quel modo si produce quello che viene chiamato resistenza ciclica, okay? In vari esseri, okay? I loro vari aspetti, i loro vari ambienti, le loro varie esperienze derivano da queste azioni. Quindi possiamo, quindi ci sono vari livelli di pratica, abbiamo la persona che ricerca quindi la pacificazione, una semplice pacificazione della sofferenza manifesta, quindi che ricerca nel futuro di essere più felice, di avere delle buone condizioni, poi un altro che ha una comprensione molto più profonda, che percepisce quindi questa natura di insoddisfazione dell'esistenza, che non si passa comunque al di là della nascita e della morte, perché tutto è condizionato dall'ignoranza, e questa persona quindi ricerca l'emancipazione di questo ciclo di esistenza ciclica, di questo ciclo di esistenza. E poi un altro che è motivato dalla grande compassione ricerca lo stato di Buddha. Queste sono le tre divisioni del praticante. Ok, quindi adesso entriamo nella seconda divisione dell'essere di motivazione iniziale, quindi quello che ricerca la felicità nelle vite future, e abbiamo il metodo effettivo. E il metodo effettivo per ottenere felicità nelle vite future, ha due suddivisioni. Il primo è la presa di rifugio, okay? E il secondo è la cognizione della legge di causa-effetto. Okay? Quindi adesso sono degli argomenti, adesso che incominciano a diventare un po' più complicati, quindi pazienza, sì, le cose non sono chiare, okay? Mi chiedete di ripetere, sono qui per ripetere le cose, quindi non c'è problema. Però adesso incominciamo un po' a entrare in aspetti un po' più difficili e sottili. Okay. Allora, indicare il metodo per la felicità nel mondo futuro. Siamo a pagina 35. Okay? Questa abbiamo due suddivisioni: la presa di rifugio, la porta per entrare negli insegnamenti, e due, la meditazione sulle azioni, i loro risultati, la radice di ogni felicità e eccellenza. Primo, quindi abbiamo la presa di rifugio, la porta per entrare negli insegnamenti, abbiamo il soggetto effettivo e i precetti. Quindi cosa significa? Significa che avremo una presentazione per primo dei tre oggetti di rifugio, che cos'è il Buddha, che cos'è il Dharma, che cos'è il Sangha, il perché sono oggetti di rifugio validi, ok? Quali sono le loro qualità, quali sono le loro funzioni, quali sono le loro caratteristiche. Questo in breve è quello che studieremo, vedremo insieme, ok? Quindi sarà piuttosto un po' di sessione, penso un paio di sessioni solo su queste cose. Poi avremo i precetti, quindi una volta che la persona decide di prendere rifugio, ok? Ci sono dei precetti da seguire, 12 precetti da seguire, ok? Questi precetti non li dovete vedere come delle regole che bisogna seguire perché è tipo l'esercito, eccetera, assolutamente no. Sono dei precetti che sì, vengono seguiti automaticamente, vi aiutano a eliminare le cause della sofferenza e a produrre le cause della felicità. Semplicemente l'appoggiare, cioè l'appoggiare il proprio comportamento fisico, verbale e mentale su questi precetti aiuta la non degenerazione del rifugio e quindi aiuta a produrre le cause di più grande felicità. Ok? Il soggetto effettivo. Allora, il soggetto effettivo. L'impegnarsi nell'attività del Bodhisattva, il Shantideva, asserisce. Come il bagliore di un fulmine, in una notte buia e nuvolosa, per un istante chiaramente illumina ogni cosa. Così, in questo modo, per il potere del Buddha, azioni, meritoria intelligenza di pensiero si manifestano raramente per breve tempo. Perciò la virtù è sempre debole e la grande forza di ciò che è negativo è estremamente intensa. Spaventati dalle condizioni svantaggiose, desiderosi di qualità, si contemplano gli esseri trasmigranti che sono simili a se stessi, dal punto di vista dei tre tipi di compassioni. Fino ad ora, se paragonate alle proprie negatività, che sono simili ad un grande oceano, le proprie virtù sono state come le aspersioni di acqua raccolta dalla punta di uno stelo di crusca. Oltre al loro essere di forza molto piccola, anche in questa vita si ingannano gli altri tramite la falsità di avere il nome e la forma di un praticante di Dharma. Quando si controllano le scritture ed il modo in cui la propria mente si comporta, si costa che si è soprattutto nel lato della non virtù. Inoltre, il nemico chiamato alla sofferenza delle trasmigrazioni negative è definito che si presenti entro i 100 anni. Perciò, non è forse appropriato ricercare una fonte di rifugio che possa proteggerci da ciò? Che cosa è idoneo come rifugio? La 70ª sezione della presa di rifugio asserisce: il Buddha, il Dharma e il Sangha sono i rifugi di coloro che desiderano la liberazione. Poiché è necessario prendere rifugio nei tre gioielli, il modo in cui si prende rifugio è come segue. La lode all'analogia asserisce: il tuo corpo adorno ed abbellito, con i segni, il nettare per gli occhi, è come se fosse adorno di una massa di stelle in un cielo autunnale privo di nubi. Grazie. Ok. Quindi come dicevo prima, no? Dobbiamo contemplare che l'unica certezza della nostra vita è la morte, tutto il resto sono dei progetti nello spazio, ok? E questa morte non si sa quindi non si sa quando potrebbe accadere, quindi dopo la morte non è che la nostra continuità viene estinta esattamente come una candela viene estinta, no, c'è la continuità della coscienza sottile. Continuità della coscienza sottile, quindi altre esperienze sorgono. Il problema è che, e quindi queste esperienze future sono molto, non sono le cose lontane. Non pensate che l'esperienza delle vite future è una cosa lontana in termini di tempo o anche in termini di luogo, okay? Può essere stasera, può essere stasera. Come dicevo l'altra volta, l'unica cosa che ci separa dall'esperienza delle vite future è il proprio respiro. Il respiro si ferma, morte clinica, lo stato intermedio è l'apparenza della vita futura. E non abbiamo certezza di quando può accadere questa cosa. Questo è molto importante di cercare di, l'avevo già spiegato nelle sessioni precedenti, no? Di incominciare a fissurare. Si dice fissurare? No, no, no, no, no, no, questo è francese, ok. Indebolire, ok? Indebolire questa mente che si afferra alla permanenza, no? Che noi saremo ancora in vita per i prossimi 30, 40, 50 anni, ok? non c'è nessuna certezza di questa cosa e abbiamo visto, no, che ci sono molte più cause per recidere l'esistenza che per farla perdurare. Okay? E quindi è una mente erronea, è una concezione erronea di pensare che con certezza che ce la faremo a vivere per altri 30-40 anni. Non c'è nessuna certezza. Quindi finché abbiamo questa mente così, così che si afferra così alla permanenza, la pratica del Dharma non c'è spazio, semplicemente non c'è spazio, che questo è l'ostacolo maggiore a impegnarsi nella pratica del Dharma. Quindi dobbiamo contemplare che dobbiamo morire, non sappiamo quando, e quindi ci sarà qualcosa dopo questa vita. Il problema è che non abbiamo nessun controllo sulle nostre esperienze, non abbiamo neanche il controllo sull'esperienza di questa vita. Non so se avete notato, ma le cose accadono e non abbiamo nessun controllo. Vogliamo sperimentare la felicità e il benessere, sperimentiamo l'opposto. Quindi pensate un po' alle vite future, cioè, il controllo è ancora molto più lontano. E sì, quindi guardiamo, perché siamo sotto il controllo del karma, delle proprie azioni, questi potenziali che maturano quando le condizioni esterne e interne arrivano. E quindi sì, guardiamo, vediamo che le nostre virtù sono molto deboli. Le nostre virtù sono molto deboli. Guardate in una giornata quanti pensieri virtuosi avete, quante volte la vostra mente si gira verso, non so, attitudini di empatia, di compassione, di amore per gli altri, quante volte cerchiamo di beneficiare gli altri in una giornata, no? Cioè poco. In generale pensiamo a noi, a essere protetti dalla sofferenza, essere in contatto con la felicità. E per ottenere questi due obiettivi non abbiamo nessun problema a danneggiare gli altri. Non è un problema. Passare davanti agli altri, spingere un po', non è un problema. Lo facciamo nell'ambito del. Lo facciamo nei tutti i nostri vari, diciamo, ambienti, no? Particolarmente l'ambiente lavorativo, non so se avete notato. Comunque, quindi il problema è che in questo modo, con quel tipo di comportamento, abbiamo creato poche cause di felicità futura e tante cause di sofferenza futura, perché tutto è come un eco, no? Un eco, no? L'eco, sapete come funziona, vi mettete da un lato del valle, però è il suono sempre apparire dall'altro lato, però inizialmente siete voi che l'avete messo quel seme, no? Quindi l'azione, sono un po' così, no? Ogni volta è come. Cioè, c'è un ritorno, ok? Quindi dobbiamo contemplare quante è quasi certa per noi l'esperienza di sofferenza nel futuro, è quasi assicurata, ok? Quasi assicurata. E quindi dobbiamo con queste contemplazioni generare un certo timore di sperimentare questa sofferenza, no? Degli inferni freddi, dei preta, degli animali, o se non ce la facete a concettualizzare quel tipo di esistenza, guardate dei stati umani, perché anche a livello umano si trovano delle sofferenze estremamente intense per molto tempo. No? Potete rinascere in Somalia, no? Potete rinascere in paesi come l'Afghanistan o come in Iraq, no? E sperimentare grande, grande sofferenza tutta la vostra vita, no? E questo esiste a livello umano, quindi non c'è neanche bisogno di pensare troppo a queste reami inferiori, no? Se non ce la fate. Quindi pensate in quel modo e generate, meditate come se forse avete preso rinascita in questi posti, che sperimentate queste sofferenze della vostra vita, e quindi si genera il timore e si di sperimentare questo e si cerca una protezione. Chi ci può proteggere da queste sofferenze future? E ecco perché abbiamo quindi l'insegnamento adesso sui tre gioielli, come la fonte di rifugio, no? Rifugio da che cosa? Dalla sofferenza futura. Quindi il prendere rifugio, l'attitudine del prendere rifugio, o la presa di rifugio effettivo, mettiamola così, la presa di rifugio effettivo, due attitudini mentali devono essere presenti. Quindi la presa di rifugio non è soltanto recitare quella cosa in tibetano, in italiano o come volete, alle quattro linee di all'inizio dell'insegnamento. Non è questa la frase di rifugio. La frase di rifugio è un'attitudine interna e ci sono due componenti. Un primo componente è timore e il secondo componente è fiducia. Quindi, visto che distinguiamo tre tipi di praticanti, avremo tre tipi di rifugio. Avremo la persona che cerca rifugio, che prende rifugio per essere protetto della sofferenza futura e è convinto che i tre gioielli sono in grado di proteggerlo della sofferenza futura. Poi avremo un essere che prende rifugio per essere protetto della sofferenza del samsara in generale e è convinto che i tre gioielli sono in grado di proteggerlo di questa sofferenza generale ciclica. E poi c'è un altro tipo di praticante che prende rifugio motivato dalla paura, dal timore, della sofferenza che possono sperimentare gli altri esseri, i suoi madri, nel futuro. E quindi prende rifugio, nei tre gioielli, convinto anche che, sono in grado di aiutarlo a proteggere gli altri. Okay? Quindi abbiamo tre tipi di praticanti, tre scopi, tre rifugi, tre tipi di paura, di timore e quindi tre tipi di convinzione. Quindi noi dobbiamo vedere quando andiamo, per esempio, nel gomba o facciamo le nostre pratiche, perché normalmente queste azioni devono essere precedute della presa di rifugio, no? Dobbiamo vedere che tipo di attitudine abbiamo al momento della presa di rifugio, in che di questi tre entriamo. Così in un modo spontaneo, spontaneo. Così abbiamo un'idea molto chiara di dove siamo nel sentiero. Abbiamo molto chiaro dove siamo nel sentiero. Se non entriamo ancora in uno di questi tre, allora dobbiamo cercare di produrre la mente che si muove verso uno di questi tre. E poi se abbiamo uno, dobbiamo cercare di generare quella superiore, ok? Con queste varie con le varie contemplazioni che vedremo piano piano. Ok? È chiaro questa cosa? Avete sono delle domande rispetto a questo? Ma possono coesistere tutte e tre insieme? Allora, questa è una buona domanda. La terza implica la seconda e la prima. La seconda implica che c'è anche la prima, ok? Sono racchiusi dentro. Però la motivazione, perché? Perché semplicemente che la terza motivazione non può essere generata se la persona non ha realizzato il secondo livello di motivazione e anche il primo. E il secondo livello di motivazione non può sorgere, si è generato anche il primo. Okay? Ecco perché è un sentiero graduale. Mentre se uno è il primo, si identifica nel primo, si vede nel primo, deve aspirare Al al secondo terzo. Cioè, e al secondo è al terzo, terzo. certo, in Grazie. quel modo. Okay? In termini di rifugio, dobbiamo distinguere anche due tipi di rifugio. Un rifugio semplice è un rifugio speciale, o lo possiamo mettere così, no? Un rifugio causale è un rifugio risultante, o un rifugio esterno è un rifugio interno. Quindi il rifugio semplice, o il rifugio causale, o il rifugio esterno è semplicemente il vedere, per esempio, se una persona ha paura della sofferenza degli areami inferiori, no? Allora prende rifugio nei tre gioielli. Buddha, il suo insegnamento, Dharma, e i seguaci, il Sangha, come aiuto esterno che lo proteggono di queste cose, esattamente come una persona può proteggere un'altra, no? Okay. Questo è stessa cosa per l'essere di motivazione intermedio e l'essere di motivazione superiore, che okay? È un rifugio esterno. Quindi causale, causa il rifugio, ok? È un aiuto esterno che protegge, esattamente come una persona protegge un'altra. E questo non è il tipo di rifugio che dobbiamo generare. È già un inizio, è già buono aver questo, però non dobbiamo generare quel tipo di rifugio. Il rifugio che dobbiamo cercare di generare è un rifugio interno o un rifugio risultante o speciale, nel senso che cos'è che ci può veramente proteggere della sofferenza dei reami inferiori. Cominciamo gradualmente, dei reami inferiori. Che cos'è che veramente ci può proteggere? Domanda. Allora, le azioni virtuose non ci proteggono dalla sofferenza futura, creano le cause della felicità futura. Però ciò che ci protegge dalla sofferenza futura è l'eliminazione delle azioni non virtuose. Ok? Quindi, cosa significa? Significa che la persona genera una convinzione nella legge di causa effetto, ok? Una convinzione nella legge di causa effetto. Questo significa che la persona genera anche una convinzione nella validità del Buddha, del suo insegnamento e delle persone che seguono questo insegnamento, che hanno come sfera di attività questo insegnamento, ok? E anche che questa persona il suo comportamento fisico, verbale e mentale è in sintonia con l'insegnamento. Quindi questo che cosa sono? Sono delle comprensioni, sono delle realizzazioni. Quindi che cos'è che protegge della sofferenza dei reami inferiori? Sono le realizzazioni contenute nell'insegnamento, nelle contemplazioni dell'essere di motivazione iniziale. Okay? Questo è il vero rifugio. Sono le proprie qualità, le proprie realizzazioni, comprensioni che riusciamo a generare all'interno della nostra mente. Questo è il rifugio risultante. Okay? Qui a quel momento il rifugio diventa qualcosa di molto profondo. Non è più qualcosa di esterno, ma qualcosa che dobbiamo generare. Prendiamo rifugio nella nostra pratica, nella comprensione, nella nostra attività, nelle nostre realizzazioni. Quindi dobbiamo cercare di avere questa comprensione e quindi di far sorgere quel livello di rifugio. Stessa cosa, cosa protegge l'essere della sofferenza del samsara in generale? Chi è che mi può dire questo? Dei comportamenti atici. Della sofferenza del samsara in generale. Siamo nell'essere di motivazione intermedia, scusate. Riuscire a dominare le proprie emozioni perturbatrici. Ok, dominare, più che dominare, eliminarle. Questa persona, per essere protetto della sofferenza del samsara in generale, bisogna uscire dal samsara e quindi bisogna aver eliminato le oscurazioni affettive, queste cose. Quindi questo significa che bisogna aver eliminato l'ignoranza e quindi questo significa che c'è la realizzazione diretta del modo di esistere dei fenomeni, okay? Questa famosa reazione della vacuità. A quel momento diventa importante, prima non è necessario, a quel momento diventa importante. Quindi vedete che qual è il rifugio? Qual è il rifugio di questa persona? E quindi sono le sue realizzazioni, no? Sono le sue realizzazioni. Il gioiello si chiama il gioiello del Dharma. È il Dharma proprio il vero rifugio, no? La propria pratica. In questo contesto si tratta dei veri sentieri e delle vere cessazioni. È la stessa cosa per l'essere di motivazione superiore, vuole ottenere, quindi vuole ottenere questo stato di Buddha per essere di beneficio e proteggere gli esseri senzienti, quindi deve attualizzare quel livello in lui, no? Quindi questo è il tipo di rifugio che dobbiamo cercare di avere in mente, no? Quindi quando si prende rifugio dovremmo cercare di avere queste due attitudini di timore e di fiducia e si dovrebbe prendere in considerazione il rifugio interno, no? Però piano piano, però insomma, queste cose è necessario sentirle. Ok, quindi quello che è importante per adesso è di fare sforzo nel attualizzare queste due componenti del rifugio, timore e fiducia. Fiducia. Queste sono importanti da coltivare. Altrimenti il rifugio sono le mere parole, bla bla bla, no? Sì, il nostro rifugio è veramente forte, è stabile, allora questo è veramente un potere di trasformazione sulla mente. Questo è veramente un potere di trasformazione sulla mente. Okay? Quindi adesso entriamo nel cercare di comprendere il perché il Buddha è una fonte valida di rifugio, no? Come introduzione di solito quando si prende l'anima in esteso, abbiamo questa presentazione dei tre oggetti di rifugio, scusate, il gioiello Buddha, il gioiello Dharma, il gioiello Sangha, ok? E isoleremo, si vengono isolati quattro qualità che fanno, come prima, no? Come introduzione, quattro qualità che fanno del Buddha una fonte di rifugio idonea. Quindi dobbiamo distinguere il Buddha dal gioiello Buddha, il Dharma dal gioiello Dharma e il Sangha dal gioiello Sangha. Quindi quando si prende rifugio nei tre gioielli, gioiello Buddha, Dharma, Sangha. E questo non necessariamente sono il Buddha, Dharma, Sangha. Mi spiego. Che cos'è il Buddha? Il Buddha è una persona, è un essere che ha eliminato, è una persona, ok? Però quando si prende rifugio, noi che studiamo, non dobbiamo prendere semplicemente rifugio nella persona, ma dobbiamo cercare di vedere qualcosa di avere una comprensione un po' più profonda di questo, no? Prendiamo rifugio nella mente del Buddha, nella mente del Buddha, e particolarmente in questo, no? Nelle sue qualità, di più che una persona esterna. Il Buddha è un rifugio dovuto alle sue qualità che ha generato, è dovuto ai suoi abbandoni, quindi si prende rifugio in quello che viene chiamato il Dharmakaya. Il Dharmakaya è la mente del Buddha, no? È la sfera mentale finale. Dharmakaya si chiama anche, lo traduciamo questa cosa che viene dal sanscrito, si chiama il corpo di verità. Corpo di verità. E il corpo di verità ha due aspetti. Un aspetto impermanente e un aspetto permanente. Allora, l'aspetto impermanente è semplicemente la dinamica della sua mente, no? A quello che viene chiamato la saggezza suprema. La saggezza suprema. Quindi il Buddha ha eliminato queste varie oscurazioni, alla sua mente, ha realizzato il modo di esistere dei fenomeni, a realizzare la legge di causa e effetto, tutte queste cose. Quindi si prende rifugio nella sua mente, cioè il Buddha vi ha detto che è una mente onnisciente, che conosce simultaneamente tutti i fenomeni. Questo è l'oggetto di rifugio. E prendiamo quindi le sue qualità, le qualità che il Buddha ha sviluppato, le qualità della sua mente, di conoscenza, di compassione, tutte queste. Questo è l'oggetto di rifugio, no? E anche a quello che ho chiamato l'aspetto permanente della sua mente, che sono gli abbandoni. Quindi l'aspetto permanente si riferiscono alle vere cessazioni. Quindi quando si realizza direttamente la vacuità, quando si genera questa saggezza suprema che realizza direttamente il modo di dimorare dei fenomeni, allora questa mente funge di antidoto a una porzione dell'oggetto di abbandono, che è la concezione erronea rispetto al modo di esistere. Quindi, e ci sono vari livelli, quindi sono varie, di grosso, grande e sottile, quindi sono varie realizzazioni che devono essere attualizzate per progressivamente pulire la mente di queste varie oscurazioni. Ecco, ogni volta che un livello dell'oggetto di abbandono viene eliminato, questo è un'accettazione e questo fenomeno è permanente. Okay? Questo è permanente, significa che non può più mai tornare, è stato eliminato alla radice, la concezione erronea è stata eliminata alla radice, è permanente perché non cambia istante dopo istante, è un abbandono. Si chiama un negativo non affermativo, è una mera negazione di qualcosa che c'era prima, senza suggerire niente dietro. Quindi questa è la mente del Buddha. La mente del Buddha, il gioiello, questo è il gioiello Buddha, cioè l'oggetto di rifugio Buddha, no? È la sua mente, si prende rifugio nella sua mente, nell'aspetto impermanente, che sono tutte le sue qualità, la sua saggezza, e l'aspetto permanente, che sono gli abbandoni, che sono stati attualizzati sul sentiero. Difficile, cioè, avete le cose più o meno, avete afferrato il concetto o siamo lontano? Niente risposte? Ok. No, io non ho capito perché sono impermanenti queste qualità. Perché sono qualità della mente. Quindi la mente è un fenomeno impermanente, no? Perché dipende da causa e condizione. Dipende da causa e condizione e quindi è prodotto, è una causa, è una cosa funzionante e quindi ha questo stato di momentaneità. La mente stessa è impermanente, no? Ok, quindi le qualità, che sono, le qualità sono, che sono delle mente, delle qualità. La compassione che cos'è? È una mente, giusto? L'amore è una mente. La saggezza che comprende l'impermanenza sottile dei fenomeni è una mente. La saggezza che realizza il modo di dimorare dei fenomeni è una mente. Ok? La concentrazione è una mente. La consapevolezza è una mente. Quindi ecco perché tutte le qualità sono mente e quindi sono impermanenti. Impermanente non significa che sono generate e dopo si perdono. No, no, non è questo, impermanente significa che dipendono da cause e condizioni e quindi esistono un istante dopo sono riprodotti, esiste un istante dopo sono riprodotti. Ok? Prego. Domanda? No? Pensavo al fatto che comunque gli abbandoni erano proprietà della mente, erano precedentemente proprietà della mente, quindi si potrebbe dire che... Esatto, perché gli abbandoni sono attualizzati. Allora, gli abbandoni sono attualizzati, sono proprietà della mente, questo è un certo modo di vedere le cose. Okay? Nonostante, un abbandono è un fenomeno permanente, perché è semplicemente uno stato di non essere generato nuovamente. Okay? È un abbandono, è semplicemente dire, per esempio, su questo tavolo non ci, o in questa stanza non ci sono elefanti. Okay? In questa stanza non ci sono elefanti. Cosa sto suggerendo qui? Sto suggerendo semplicemente la non esistenza dell'elefante. Ok? Non sto suggerendo niente dietro. Questo è quindi è una negazione non affermativa. Questa negazione non affermativa non cambia istante dopo istante, è semplicemente negare qualcosa. Ok? Quindi questa negazione non è qualcosa che cambia istante dopo, che muta, che cambia istante dopo istante. È semplicemente una negazione. Questo è un modo molto semplice di vedere la cosa è molto più complicata di questo. Ma lo vedremo piano piano. Io cerco adesso anche di mettere delle nozioni perché piano piano la cosa si complica. Okay? Si complica. Sì. Però ecco perché è importante che se sì, qualcosa non è chiaro, me lo dovete chiedere. Io cerco di spiegarlo in vari modi, come posso. Perché se vi portate delle incomprensioni, allora queste incomprensioni dimorano e dopo diventa sempre più difficile. Quindi è importante, se qualcosa non è chiaro, mi interrompete, okay? E io cerco di presentarvi la cosa in un altro modo, con delle illustrazioni, degli esempi. Quindi avete capito la differenza tra il Buddha e il gioiello Buddha? Il Buddha è la persona, il gioiello Buddha è la sua mente. Si prende rifugio nella sua mente, in tutte le qualità che sono stati generati, ok? E tutti gli abbandoni che sono stati attualizzati. Questo è l'oggetto di rifugio. Perché? Perché nel Mahayana è questo che vogliamo attualizzare. Quindi questo diventa il rifugio risultante. Rifugio, mentre. Però all'inizio, anche se prendete rifugio nel Buddha come persona, va bene, non c'è errore, capito? Però qui abbiamo anche dei studenti, quindi cerco anche di ampliare diciamo, la presentazione. Adesso dobbiamo fare la distinzione tra il Dharma e il gioiello Dharma. Stessa cosa. Il Dharma che cos'è? Abbiamo due tipi di Dharma. Abbiamo il Dharma scritturale e il Dharma delle realizzazioni. Il Dharma scritturale è questo. Allora, questo anche se è un oggetto che deve essere trattato con grande rispetto, perché l'attualizzazione del contenuto vi porta in uno stato al di là della sofferenza, non è un oggetto di rifugio finale. Non è un oggetto di rifugio finale semplicemente perché va abbandonato a un certo punto. Quando avete attualizzato il contenuto, le scritture, non avete più bisogno. Quindi che cos'è l'oggetto di rifugio, il gioiello Dharma? Il gioiello Dharma sono le proprie qualità che vengono generate tramite la messa in pratica del contenuto di queste cose. Questo è il vero oggetto di rifugio, la propria pratica e le qualità che sono generate, che dipendono da queste scritture. Quindi il gioiello Dharma in essenza è la vera cessazione e il vero sentiero. Quindi quando si tratta delle quattro nobili verità, avete già sentito parlare delle quattro nobili verità? La verità della sofferenza, la verità dell'origine, la verità della cessazione e la verità del sentiero. Queste ultime due, la verità della cessazione e la verità del sentiero, sono il gioiello Dharma. Perché cosa sono le cessazioni? Le cessazioni sono gli abbandoni, l'eliminazione di tutte le varie afflizioni, dell'ignoranza, queste sono le cessazioni. E il vero sentiero che cos'è? È questa mente che realizza direttamente la vacuità, che permette questi abbandoni. Quindi che cos'è il vero rifugio? È la realizzazione diretta della vacuità, è le qualità che nascono da questo. Questo è quello verso il quale dobbiamo, è in questa cosa che dobbiamo aspirare. Più semplice, il gioiello Dharma è la nostra pratica. La nostra pratica. Questo è l'oggetto di rifugio. Il rifugio che ci protegge dalla sofferenza, che cos'è? È la nostra pratica, nient'altro. Il Buddha come diceva, no? Il Buddha stesso diceva: io non posso prendere la vostra sofferenza con le mie mani, non posso trasferire le mie realizzazioni nella vostra mente come si trasferisce l'acqua in un recipiente, in un altro recipiente. No, cioè, l'unica cosa che posso fare è mostrarvi il sentiero, il resto lo dovete fare voi. Quindi ecco perché il vero gioiello Dharma, che è più o meno il vero rifugio, no? È la propria pratica, è le pacificazioni che attualizziamo, è le comprensioni che generiamo. Questo è ciò che veramente ci protegge dalla sofferenza. E anche adesso. Ecco perché sono molto importanti anche i piccoli progressi che facciamo, no? Non dobbiamo sottovalutare questi piccoli passi che facciamo, perché questi piccoli passi, la loro continuità si trasformerà nel gioiello Dharma, nel nostro continuo, no? Quindi cioè vanno valutate, vanno curate questi piccoli progressi che facciamo, vanno sviluppati. Quindi il gioiello Dharma, che cos'è? È la realizzazione diretta della vacuità. E le cessazioni che risultano di questa comprensione diretta della vacuità. È chiara la cosa? Ok, allora forse la vacuità che cos'è? La vacuità in due parole, ok? È la vacuità di esistenza del proprio vacuità di esistere per il proprio carattere. Ho vacuità di esistere per il proprio potere, ho vacuità di esistenza intrinseca, no? È il comprendere che il fenomeno non è un'esistenza autonoma, indipendente, è un sorgere dipendente, esiste in dipendenza di causa e condizione. Quindi realizzare la mancanza di esistenza intrinseca è realizzare la vacuità di senso intrinseca del fenomeno, e questo è il suo modo, è la sua natura ultima, è il modo di esistere finale del fenomeno. Noi siamo nell'ignoranza rispetto a questo modo di esistere finale dei fenomeni, ecco perché abbiamo tutti questi problemi mentali, come l'attaccamento, l'avversione, la brama, la belligeranza, l'orgoglio, tutte queste cose sorgono da questo non conoscere il modo di esistere della persona, dei fenomeni della mente. Okay? E dopo abbiamo la distinzione tra, quindi avete capito? Il Dharma è il gioiello Dharma, quella differenza. Il vero rifugio è il gioiello Dharma, perché è veramente questo che ci protegge dalla sofferenza. E poi abbiamo il Sangha e il gioiello Sangha. Quindi il Sangha, cos'è il Sangha convenzionale? Okay? Sono quattro monaci pienamente ordinati. Quattro monaci pienamente ordinati, avete un Sangha. Questo è un Sangha convenzionale. Questo non è veramente un oggetto di rifugio, perché i monaci o le monache sono degli esseri, cioè semplicemente il fatto di essere monaco o monaca non implica della realizzazione, ok? Sono semplicemente delle persone che hanno fatto un scelto di vita perché è più facile, ci dà più tempo per, da, da, cioè da, così dice, cioè, è un veicolo, un certo veicolo. È un tipo di vita che lascia molto tempo per studiare, per contemplare. Okay? Quindi il gioiello Sangha, che cos'è il gioiello Sangha? È una persona che ha realizzato direttamente la vacuità. Questo è il gioiello Sangha. Può essere la vostra nonna. Se la vostra nonna ha realizzato direttamente la vacuità, è un oggetto di rifugio. Okay? Di rifugio. Perché? Beh, una persona che ha realizzato direttamente la vacuità è una persona che non vi può mai deludere. Deludere. Dice così, deludere? Okay? È una persona che è al di là della discriminazione. Lui mi piace, lei non mi piace. Okay? È al di là della. Perché? Perché è al di là dell'ignoranza. È una persona che ha realizzato il modo di esistere delle cose, dei fenomeni. Quindi è al di là delle apparenze, al di là della nozione di un io, quindi un io di una mente egoistica, no? Che guarda il proprio interesse, che considera le persone in relazione a come lo trattano. È al di là di questo. È una persona che ha imparzialità perché realizza che tutti gli esseri hanno la stessa natura. Quindi, visto che ha realizzato la vacuità, automaticamente queste varie afflizioni come l'attaccamento, l'avversione, eccetera, non possono più sorgere nella sua mente, perché non c'è più la base. Questo frate di me della realtà. Quindi queste persone non ce ne sono molte, lo dico in tempi degenerati, non ce ne sono molte delle persone che hanno realizzato quel tipo, cioè hanno quel livello di realizzazione, un livello molto molto elevato, molto elevato, molto elevato. Okay? Però ce ne sono. Quindi questo, una persona che ha questa realizzazione, qui non si parla di una semplice comprensione intellettuale che sorge dallo studio e dalla riflessione, si parla di una percezione diretta, okay? Diretta, tramite il potere dell'analisi e della meditazione. Questa meditazione è estremamente potente, con una mente analitica estremamente acuta, sostenuta da una grande concentrazione che è in grado di penetrare la natura dei fenomeni. Quindi una persona che ha questo è un gioiello sangha. Quindi avete capito quali sono i tre oggetti di rifugio? Gioiello Buddha, gioiello Dharma, gioiello sangha. Gioiello Buddha è la sua mente onnisciente, con tutte le sue qualità, è il Dharmakaya, con tutte le sue qualità e i suoi abbandoni. Questo è il rifugio. Il gioiello Dharma sono i veri sentieri che conducono alla cessazione della sofferenza e dell'ignoranza. Quindi i veri sentieri e le vere cessazioni. Questo è il gioiello Dharma che dobbiamo attualizzare. E una volta che l'avremo attualizzato, diventeremo gioiello Sangha. Ok? Quindi questo è un po' difficile, però è necessario per capire dove mettiamo i piedi. Avete delle domande? Non ditemi che tutto è chiaro, che avete capito tutto, perché non ci credo. Queste sono cose molto difficili. Ci vediamo dopo. Però qui siamo nello scopo intermedio, oppure magari nel caso in cui pensiamo allo scopo superiore, non è più la vacuità, ma è semplicemente dell'illuminazione. Allora, qui siamo al di là del considerare lo scopo. Stiamo semplicemente identificando quali sono i tre gioielli, i tre oggetti di rifugio. Quali sono le caratteristiche di oggetti di rifugio? Al di là dello scopo. Al di là dello scopo. Okay? Perché, perché comunque una persona che ha qualsiasi il suo scopo, una persona dello scopo iniziale, dello scopo intermedio, dello scopo finale, ha comunque lo stesso oggetto di rifugio esterno. Okay? La cosa che cambia è il rifugio risultante, ciò che questa persona vuole generare nel suo continuo. E anche cos'è diverso è anche la motivazione, la paura e la sua motivazione, quindi la fiducia nell'essere in grado di essere protetta da un certo tipo di timore ben particolare. Però dal punto di vista degli oggetti di rifugio devono necessariamente avere queste qualità, qualsiasi il livello di rifugio che abbiamo. Nel sangha magari vedrei più un qualcuno che ha sviluppato anche la mente dell'illuminazione, magari no? Non solo la vacuità. Sì, ma questo allora questo è il rifugio all'interno del Mahayana. Quindi il rifugio, il gioiello sangha nel Mahayana sono dei bodhisattva superiori, sono degli arya bodhisattva, sono dei bodhisattva che hanno risato direttamente la vacuità. Questo è sì il tuo oggetto di rifugio risultante, quello che vuoi attualizzare in te, è lo stato di Buddha. Però l'oggetto di rifugio che corrispondono al veicolo individuale, a una persona che desidera la liberazione, non ha bisogno di prendere rifugio in aria bodhisattva. Può farlo, anzi lo fa anche, però non necessariamente, basta un'aria. Ok? Altre cose? Sì? Si può dire che il gioiello Buddha è il punto di arrivo, il gioiello Dharma è il modo in cui arrivarci e il Sangha è una specie di supporto? Esatto. Cioè, sì. Buono. Esatto, questo è distinguere i tre gioielli, e lo faremo, questo viene anche, quando vengono distinti i tre gioielli in termini di natura o di funzione. Queste cose sorgono, sì. Quindi quando si prende, c'è una presa di rifugio anche tramite distinguere le caratteristiche, adesso siamo nella distinzione delle caratteristiche, poi c'è anche una presa di rifugio che distingue la funzione, e un'altra è la natura. Del medico, del dottore come punta le medicine come dharma, gli infermieri come che ti aiutano a prendere le medicine, sì, come livello. Questo sì, esatto, è tramite l'analogia anche, quindi tramite l'analogia possiamo avere queste analogie, no? Il Buddha è il dottore, il dharma è la medicina, sì. Okay? E il sangha sono gli infermieri. O ce n'è anche un'altra, quello che si vuole attraversare è l'oceano dell'esistenza. Quindi il Buddha è il navigatore, il Dharma è l'equipaggio, il Sangha è l'equipaggio, il Dharma è la nave che ci permette di attraversare all'oceano dell'esistenza. Quindi questo è quando la presa del rifugio viene fatta tramite analogia, queste sono le cose che dobbiamo portare a mente. Okay. Sì, buono questa cosa dei tre. Ok. Scusa, una domanda per chiarire tutto meglio. Ci sono i livelli dei Bumi, no? I vari livelli per arrivare poi a un più apprendimento del Buddha. Il più apprendimento può essere considerato quello permanente, la mente permanente? No. No. Allora, è un componente. Allora, quando il sentiero, questo si parla di sentieri, sì. Okay, sentieri Sì, vogliamo la definizione di un sentiero, è un chiaro conoscitore, quindi una mente, è che è al minimo congiunto con la mente di emersione definitiva, con la mente di rinuncia. Quando abbiamo quel tipo di realizzazione della mente, abbiamo utilizzato un sentiero. Okay? E quindi una volta che i sentieri, abbiamo il sentiero Hinayana e il sentiero Mahayana, e questi sono divisi in cinque tappi, no? Che si chiamano cinque sentieri: accumulazione, preparazione, visione, meditazione e al di là dell'apprendimento. L'al di là dell'apprendimento è semplicemente il risultato. Quindi il sentiero al di là dell'apprendimento nel Mahayana è lo stato di Buddha. Il sentiero al di là dell'apprendimento nell'Hinayana è la liberazione, il nirvana, lo stato di Ara, distruttore del nemico. Quindi nello stato al di là dell'apprendimento ci sono, visto che è il Dharmakaya, no? Il risultato finale, no? Abbiamo visto il Dharmakaya, abbiamo un aspetto permanente e un aspetto impermanente, due componenti. L'aspetto, ve lo ripeto, l'aspetto impermanente sono le mente, le varie mente del Buddha, le sue varie saggezze, compassione, eccetera. Invece l'aspetto permanente sono gli abbandoni, l'abbandono delle afflizioni, delle impronte delle afflizioni, eccetera. Quindi, se guardiamo, viene presentato nell'anno in quattro ragioni che fanno che il Buddha è degno di rifugio, di un oggetto, di essere un oggetto di rifugio, di svolgere la funzione di essere un oggetto di rifugio. Queste quattro condizioni, la prima, quattro ragioni, la prima è che perché il Buddha stesso ha ottenuto lo stato sublimo di essere al di là della paura. Quindi cosa significa? Significa che ha abbandonato tutto ciò che deve essere abbandonato, ha abbandonato l'ignoranza, le impronte dell'ignoranza, quindi è passato al di là del ciclo, okay? Del samsara, della nascita e della morte, no? Quindi essendo al di là di questo ciclo, avendo eliminato tutto ciò che è da eliminare, ha uno stato al di là della paura. Questo fa di lui un oggetto degno di paura, perché una persona che non ha attraversato tutto ciò che deve essere attraversato, no? Che ha eliminato tutto ciò che non ha eliminato, non può aiutare qualcuno completamente a farlo. Nel senso che se una persona sta cadendo, non può aiutare un altro a non cadere. Se uno non ha eliminato tutte le paure, non può aiutare un altro a eliminare le sue paure. Capito? Quindi, lo stato per essere, diciamo, che fa del Buddha un oggetto di rifugio effettivo è proprio perché ha eliminato tutto ciò che deve essere eliminato e quindi ha ottenuto questo stato al di là della paura e quindi può proteggere qualcuno della paura. Paura dei rami inferiori, paura della del samsara in generale o paura rispetto alla sofferenza degli esseri senzienti che potremmo sperimentare nel futuro, okay? In questa mente di grande compassione. Quindi il Buddha essendo libero delle rinascite non controllate all'interno di questa ciclica, no? È in grado di proteggere, di far uscire gli altri, no? È come una persona, no? Che è una prigione, no? Una persona che è già fuori dalla prigione può aiutare uno a uscirne. O possiamo prendere questa analogia, no? Uno che non sa nuotare non può aiutare una persona a non affogarsi. Quindi uno deve saper nuotare per aiutare qualcuno, per salvare qualcuno così dice? Annegamento. Dall'annegamento. Dell'annegamento. Okay? Quindi il Buddha svolge questa funzione. È libero di paura perché ha eliminato l'afferrarsi all'io. Questo è molto importante, no? Avere la nozione di un io vero e proprio, questo è come avere un bersaglio qui. Automaticamente siamo feriti, abbiamo paura, dobbiamo proteggere questo io, delle critiche ci feriscono, quelle perché abbiamo questa nozione di un io vero e proprio, di un io autonomo. Il Buddha è al di là di questa nozione, ha realizzato che non c'è un io intrinsecamente esistente, quindi è al di là della paura. Si dice che buttare dei sassi al Buddha, no? È come cercare di colpire lo spazio. Cioè, non si può toccare il Buddha perché non ha più la nozione di un io come l'abbiamo noi. Non sto dicendo che non c'è un io, attento, c'è un io che esiste e c'è un io che non esiste. Quindi nel il buddismo non sta eliminando l'io, sta eliminando l'io che non esiste, quello che è la sovraimposizione dell'ignoranza, no? Ciò che l'ignoranza aggiunge. È un modo di esistenza ben particolare che non è mai esistito, non esiste, non esisterà mai. Non stiamo dicendo che l'io non esista, stiamo dicendo che l'io intrinsecamente esistente, questo non esiste. E questo è il problema. Quindi non stiamo negando l'io, stiamo negando un io concepito dall'ignoranza. Quindi il Buddha ha realizzato la non esistenza di questo io concepito, come concepito dall'ignoranza, quindi al di là della paura. E anche al di là della mente autogratificante. Quindi la nozione di un io e la mente autogratificante sono le fonti di sofferenze e di paure. Vedremo più avanti il perché. Quindi questa è la prima. Il Buddha è un oggetto di rifugio perché è al di là della paura e abbiamo sviluppato questa cosa. Il secondo. Il Buddha è un oggetto di rifugio perché è abile nei metodi per addestrare i discepoli. Ha questa abilità nei mezzi per liberare gli esseri, per piano piano, in un modo progressivo, porle in accordo alle loro predisposizioni, alle loro aspettative, ok? Alle loro intelligenze di presentare l'insegnamento, la pratica per piano piano portare questi essi primo nei rami di portarli primo nei rami superiori. Una volta che sono nei rami superiori, di farli generare la mente di emersione definitiva. Una volta che abbiamo generato questa mente di emersione definitiva, quelli che vogliono ottenere la liberazione ottengono la liberazione. E poi quelli invece che hanno le predisposizioni possono anche generare, quindi generare la mente di bodhicitta e ottenere lo stato di Buddha. Quindi il Buddha è abile perché conosce, ha accesso alle predisposizioni degli esseri, al loro karma e quindi ha questa abilità a dare esattamente ciò che di beneficio a una persona in un contesto particolare, a un momento particolare. Quindi tutto ciò che insegna il Buddha è un metodo abile per eliminare tutte le varie sofferenze dell'essenza ciclica e per trasformare la mente nell'entità di un sentiero spirituale. Adesso la nostra mente non è assolutamente nell'entità di un sentiero spirituale, è nell'entità di un sentiero verso i rami inferiori. Okay? Quindi dobbiamo fare che questa mente si trasforma nell'entità di un sentiero spirituale. Okay? E abbiamo visto sono tre tipi di sentieri spirituali: quello che conduce alla felicità nei rami superiori nella prossima vita, quello che conduce alla liberazione o quello che conduce allo stato di Buddha. Quindi, sì, il Buddha non era abile nella presentazione dell'istruzione, dell'abilità, nell'addestramento dei discepoli, allora non sarebbe in grado di, come si dice, esaurire no, i nostri desideri, esaudire i nostri desideri, i nostri bisogni, non potrebbe farlo. Quindi non è il caso. La terza ragione per la quale il Buddha è degno di essere un oggetto di rifugio è dovuto alla sua grande compassione. Quindi il Buddha è vincolato dalla grande compassione, esattamente come noi siamo vincolati dall'afflizione mentale, mi spiego, che quando sorgono non possiamo fare altro. Nel senso, prendono il controllo della nostra mente, della nostra attività fisica e verbale, e non possiamo fare altro che seguirle. Il Buddha, lui, è vincolato dalla grande compassione. Nel senso che per così tanto tempo, quando il Buddha era in Bodhisattva, si è così addestrato, familiarizzato con la grande compassione, quindi questa mente che desidera separare gli esseri della sofferenza, delle cause della sofferenza, che il Buddha non può fare altro che quindi essere sotto l'influenza in permanenza e acerrimo, in permanenza, sì, sempre di questa mente, sotto l'influenza di questa mente. Sì, il Buddha non era sempre sull'influenza della grande compassione, significa che ci sarebbe dei momenti dove non beneficia gli esseri, non protegge gli esseri. Perché certe volte ci sarebbe, certe volte non ci sarebbe. Quindi sarebbe dei momenti in cui il Buddha non fa niente, però meglio per fare qualcosa, quindi non sarebbe un oggetto degno di rifugio, sarebbe come un essere ordinario, più o meno. L'altro, ok, quindi sì, questo. Allora, sì, è una compassione, una compassione anche imparziale, completamente imparziale. Anche noi abbiamo compassione e amore, no? Però abbiamo compassione e amore per quelli della nostra famiglia, per la nostra famiglia, per i nostri amici, o per quelli che sono suscettibili di diventarlo. Allora vogliamo beneficiare queste persone, vogliamo aiutare. Invece gli altri cadono in altre due categorie, quelli che sono considerati come i nemici, quindi loro assolutamente non li vogliamo beneficiare, anzi li vogliamo anche danneggiare, e poi ci sono anche quelli che non conosciamo, e quindi abbiamo indifferenza rispetto a questa terza categoria di persone. Quindi il Buddha è completamente al di là di questo. Il Buddha ha una grande compassione imparziale, osserva tutti gli esseri nello stesso modo. Com'è? Quello si basa sull'equanimità, però a questo livello parliamo della sua grande compassione che è imparziale, perché l'equanimità sorge necessariamente, cioè l'equanimità ci deve essere, però è una grande compassione imparziale. Quindi è una mente, una grande compassione che non fa la distinzione tra amici, nemici e stranieri. Neutri, sì, stranieri. Ok, poi abbiamo la quarta qualità. La quarta qualità è che il Buddha. Il Buddha è compiaciuto dall'offerta della pratica. Possiamo metterla così, forse c'è un altro modo di dire questa cosa. Mettiamola così, che il Buddha è di beneficio alle persone qualsiasi latitudine che hanno rispetto a lui. Rispetto a lui. Nel senso che, sì, prendiamo un esempio, no? Un po' così. Se una persona, il Buddha è presente, da un lato abbiamo una persona, non so, che fa offerte al Buddha, o gli fa dei massaggi, delle cose del genere, e poi invece un altro che con un coltello gli sta tagliando le dite, no? Piano piano, prendendo tempo, piano piano. Il Buddha ha la stessa attitudine rispetto a queste due persone. La stessa attitudine, la sua mente non si muove della grande compassione e del voler beneficiare ugualmente queste due persone. Ecco perché. Perché ha abbandonato la nozione di un io, non c'è più questa nozione di un io intrinsecamente esistente. Okay? Quindi automaticamente la mente autogratificante non c'è più. Quindi ha questa attitudine uguale rispetto a queste due persone. Sia una mente che desidera quindi beneficiare tutti, qual sia l'attitudine che hanno ai suoi confronti. Perché? Perché semplicemente ha compiaciuto dall'offerta della pratica. non è uguale a quello precedente. No, la precedente si guardava la compassione, che è imparziale, e questa mente non fa distinzione, è una mente che non fa distinzione tra tre categorie di persone. In questo contesto si osserva una mente che ha il desiderio di beneficiare a qualsiasi latitudine il danno o il servizio o non so che viene fatto, no? Che viene dato. Quindi c'è una differenza tra questi due. Quindi una persona che è così, no? Che è libera di tutte le paure, che ha l'abilità nei mezzi per liberare gli altri dalla paura, che ha grande compassione per tutti e che agisce per il benessere di tutti, senza prendere in considerazione si l'hanno o meno, si l'hanno o meno beneficiato, aiutato, eccetera. Questa, un essere che è così, è un essere degno di essere un oggetto di rifugio. E il suo insegnamento, anche il suo insegnamento, e anche le persone che lo seguono. Quindi dovremmo cercare di riflettere su queste cose, no? Cioè, stasera mi fermo qui, riflettete su queste cose, cercate di vedere se ha un senso, se effettivamente qualcuno che è così avrebbe eventualmente, sarebbe effettivamente degno di essere un oggetto di rifugio, ok? Quindi ricordate che il rifugio devono essere due attitudini, devono essere presente nella mente quando si prende rifugio per avere un rifugio effettivo. Uno è la paura, il timore rispetto a qualcosa di particolare che dipende dal livello di motivazione che abbiamo attualizzato, e l'altro è la fiducia che effettivamente il Buddha, il suo insegnamento, le persone che lo seguono, sono effettivamente in grado di proteggere da quel livello di paura che abbiamo. Ci sono delle domande? Complicata la storia. Il buddismo è complicato, normale. Perché? Perché diciamo, ciò che ci mantiene nella sofferenza è un fraintendimento della realtà, non è qualcosa di semplice. Semplicemente concepire cioè, cosa significa avere un fraintendimento della realtà, anche solo questo è difficile da concepire. Com'è possibile che i fenomeni ci appaiono in un modo, ma esistono in un altro? Perché è di questo che stiamo parlando. I fenomeni appaiono in un certo modo, però esistono in un altro modo, no? E il credere quindi a questo modo di apparire dei fenomeni, questo è l'ignoranza. L'accettare questo modo di apparenza, questo è l'ignoranza. Dovuto a questo, a credere in ciò che appare ai nostri occhi, abbiamo tutte queste varie afflizioni mentali. Dovuto a questa afflizione mentale si compiono delle azioni, e dovuto all'azione sperimentiamo o felicità o sofferenza senza scelta. Senza decidere, se siamo completamente, diciamo, sotto, siamo potenziati da altro, cioè sotto il potere del karma dell'afflizione. Quindi la cosa è molto complicata, molto complicata. Ovviamente sì, il nostro scopo è solo di ottenere l'afflizione di vita futura, allora la cosa è più semplice, però se ci vogliamo, dobbiamo capire anche che anche se il nostro scopo è semplicemente di ottenere la felicità nelle vite future, non passiamo al di là di molte sofferenze, come quella della nascita, come quella dell'invecchiamento, come quella della malattia, della morte, dell'essere sempre separata di quelli che amiamo, così chiamiamo? Di essere sempre in contatto con ciò che non è piacevole, di mai ottenere quello che desideriamo. Sempre così. Così. Quindi comunque anche se già si chiama una felicità temporanea, temporale, però non passiamo al di là del ciclo. E ci sono delle limitatezze, no? A questa felicità nei reami superiori. Vedete, il livello umano è considerato come un'esistenza superiore, però è anche pervaso di sofferenza. Quindi, finché dimoriamo nell'esistenza ciclica, dove i nostri costituenti fisico-psichici sono prodotti dal karma e dell'azione, hanno delle caratteristiche disfunzionanti. E queste caratteristiche disfunzionanti sono esattamente ciò che ci crea sofferenza. Finché la nostra mente è in grado, dovuta a condizioni esterne, no? Di generare della brama, dell'attaccamento, dell'avversione, dell'odio, della collera, della gelosia, dell'invidia, come è possibile sperare una situazione di felicità stabile e duratura? È impossibile. Anche se prendiamo soldi di questo corpo sta degenerando istante dopo istante. A un certo punto sarà proprio, una massa di sofferenza. Comunque abbiamo sempre dei problemi col corpo, perché è troppo magro, perché è troppo grosso, mi fa male la schiena, fa male la testa, fa male di qua, fa male di là. E questo è solo l'inizio, nel senso che questo è quando tutto va bene. Questo è quando tutto va bene. Quindi la felicità nei reami superiori, va bene, però è molto limitata, molto limitata. E abbiamo un potenziale, no? Abbiamo il potenziale di anche emanciparci completamente tutte queste sofferenze, no? Di eliminare tutte le afflizioni, tutte queste attività mentali, abbiamo la possibilità di realizzare il modo di esistere dei fenomeni, no? È affascinante questa cosa. Avete incontrato l'insegnamento, avete una mente, siamo intelligenti, abbiamo certe libertà, quindi dobbiamo utilizzare queste condizioni che abbiamo per realizzare questa cosa, no? Altrimenti quando lo facciamo? Se non lo facciamo, se non usiamo questa possibilità che abbiamo adesso, quando lo faremo? Prossima vita? Boh, non penso. Quindi il momento è adesso, non tra 10 anni quando sarò in pensione o quando i figli saranno all'università, perché non sapete neanche se arriverete a quel momento. Il momento è adesso. Poi, prendendo anche in considerazione tutti gli altri esseri senzienti, no? È anche molto limitato cercare di assicurarsi a se stesso, no? Con la propria felicità. È come essere imprigionato con tutta la propria famiglia, no? Con il padre, la madre, la nonna, i figli, eccetera. E poi state facendo dei piani per andarne via da solo. Molto limitata la cosa, molto limitata. No? Dobbiamo attualizzare uno stato, abbiamo questa capacità, no? Perché abbiamo una mente, quindi abbiamo questa capacità, l'essenza del Tathagata, il potenziale del Buddha, l'abbiamo. Quindi possiamo fare che questa mente diventi una fonte di felicità per tutti, senza discriminazione. Incredibile. Che scopo più elevato potete trovare? Non c'è. Quindi abbiamo l'opportunità, abbiamo il tempo, ok? È a noi di portarlo avanti. C'era una domanda? Sì. Volevo sapere perché lo scopo di motivazione iniziale è comunque superiore, cioè di avere una felicità nella prossima vita, no? Senza l'idea di uscire dal samsara, è comunque superiore allo scopo di chi vuole essere felice in questa vita. Non ho capito, mi devi rifare. Mi puoi spiegare? È un po' tardi, sono un po' cotto, quindi devi essere paziente. Dimmi. Prendiamo negli scopi che hai elencato, no? Mi sembra che ci sia una graduatoria. Quindi l'ultimo è quello più elevato. Sì, più Ecco. ampio, anche l'intelligenza è superiore. Quindi naturalmente capisco che quello intermedio e l'ultimo, quello superiore, sono scopi di persone che non rimangono appunto fermi al riferimento a questa vita, ma sono proiettati verso non solo verso la vita futura, ma al superamento dell'esistenza ciclica. Esatto. Invece non capisco una persona che ancora ha una motivazione iniziale. Come si differenzia da una persona che invece vuole essere felice semplicemente in questa vita? Allora, qual è la differenza tra i due? Sì. Eh beh, la differenza l'hai appena menzionato, c'è la risposta nella tua domanda. Nel senso che la persona, mettiamola così, sono due tipi di persone, no? Abbiamo una persona che ricerca esclusivamente la felicità di questa vita, Sì. ok? Questa persona non è un praticante, okay? Non è un praticante del Dharma, perché il praticante del Dharma viene definito come quelli che osservano la felicità delle vite future. E quindi un altro che ha realizzato la sua, è un problema di maturazione della propria mente, di comprensione, no? La seconda persona ha realizzato che questa vita c'è una fine e non si sa quando. Ha realizzato anche che ci sono queste leggi di cause e effetto, che tutte le esperienze dipendono dalle proprie azioni, no? Tutto è un sorgere intendente. E quindi pensa anche che ci sono le vite future, ci sono molte queste vite future. E quindi realizza che semplicemente essere focalizzato su una vita e essere focalizzati su molte vite future è più importante. Focalizzarsi su molte vite future, perché le vite future per noi sono ancora infinite, ancora molti nel nostro caso. E quindi questa persona utilizza le sue capacità, quello che conosce, eccetera, utilizza l'energia che ha per produrre cause di felicità per molte vite future, invece che l'altro è esclusivamente concentrato sull'ottenere felicità in questa vita. Non soltanto, allora questa è la differenza tra i due. Ma quella persona che ricerca esclusivamente l'ottenimento della felicità in questa vita, possiamo distinguere le due: uno che utilizza un sentiero spirituale, una dottrina spirituale, e una che non utilizza dottrina spirituale. Quindi quello che non utilizza dottrina spirituale non ce la farà mai. Perché? Perché quando questa è il mio pensiero. Perché? Perché quando si ricerca l'ottenimento della felicità esclusiva in questa vita, automaticamente si ricerca la felicità tramite beni, servizi, situazione, persone, eccetera, eccetera. E qual è il risultato di tutto questo? È l'incremento delle afflizioni, attaccamento e quindi avversione per ciò che mette in pericolo l'ottenimento di quello che vuoi ottenere. Quindi è un incremento, questa persona no? È un incremento delle afflizioni, necessariamente. Qualcuno invece che cerca di ottenere la felicità in questa vita utilizzando un sentiero spirituale è già una persona più intelligente, che ha possibilità di, generando un po' di, coltivando la mente contenta, no? La soddisfazione. Utilizzando queste cose che provengono da vari sentieri spirituali, in grado poi di pacificare la sua mente. Okay? Però lo scopo è molto limitato, perché la stessa cosa può essere fatta avendo un altro scopo. Nel senso che quando ci addestriamo anche, prendiamo anche il primo, perché gli altri due, quando si comprende il primo, per gli altri due è così ovvio che non c'è neanche bisogno di menzionarle. Prendiamo uno che vuole attualizzare la felicità nelle vite future. Quindi questa persona cosa fa? Prende rifugio, ok? Prende rifugio, quindi la presa di rifugio significa accumulazione di meriti, purificazione della mente automaticamente, perché sono i vari contemplazione, ok? Significa sviluppare delle menti virtuose, quindi significa cercare di controllarla propriamente. Fare che questa mente non sviluppa troppo attaccamento, troppa avversione, significa che questa persona cerca di produrre le cause, direttamente cerca di produrre le cause di felicità futura, quindi adopera il comportamento etico corretto di corpo, parola e mente, quindi automaticamente abbandona le varie azioni che sono di danno agli altri, come uccidere, come rubare, queste cose, no? Quindi, qual è l'effetto sulla mente di una persona che ha quale tipo di addestramento? No? Automaticamente le afflizioni vengono pacificate. Quindi, automaticamente, perché il comportamento etico, nel comportamento etico, implica il non odio, implica la non brama, implica la non malevolenza, implica tutte queste varie cose, no? Quindi, producendo le cause di felicità futura, attualizza anche la felicità in questa vita. È chiaro. Quindi, alla persona che ricerca la liberazione è ancora più chiaro perché utilizza la concentrazione, la saggezza che realizza la vacuità, che è l'antidoto a tutte le afflizioni, senza parlare della persona che ricerca lo stato di Buddha. Capito? Quindi è uno spreco utilizzare il Dharma per attualizzare la felicità in questa vita. È uno spreco. Perché potete farlo. Potete farlo avendo uno scopo superiore a questo. Viene fatto, è un prodotto secondario. La felicità di questa vita, sì, siete sinceri nella vostra pratica, che fate le cose, seguite le cose come vengono presentate, sia per l'ottenimento della felicità futura, sia per la liberazione, sia per lo stato di Buddha. La felicità di questa vita è un prodotto secondario. È un prodotto secondario. È assicurato che la mente si pacifica. Perché utilizzate i mezzi per pacificarla, o direttamente o indirettamente, indirettamente col primo scopo, direttamente con gli altri due. Chiaro? Quindi riflettete a queste cose, vedete se effettivamente così, perché ve lo dico, ma dovete generare una certezza di queste cose, cioè nel senso che dovete riflettere e vedere se effettivamente è così, altrimenti non ha molto forza. Dobbiamo generare quello che chiamiamo un conoscitore valido, il cognitore valido, convenzionale, quindi inferenziale e diretto. Okay? Quindi questo significa che bisogna riflettere molto. Ok, vi ringrazio. Grazie. Allora, dedichiamo tutte queste cose, 2 minuti. Abbiamo riflettuto, siamo stati pazienti, abbiamo cercato di capire, di prendere degli appunti, abbiamo generato una motivazione corretta, elevata, eccetera, quindi abbiamo generato molte virtù, molta energia virtuosa, ok? E quindi dobbiamo fare in modo che questa energia virtuosa non venga persa, no? Non venga persa come semplicemente cose temporanee, o che viene distrutto da altre attitudini mentali, quindi dobbiamo dedicarla, all'illuminazione di tutti gli esseri senzienti, affinché noi velocemente otteniamo le qualità del Buddha per essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti, andiamo a dedicarlo anche alla lunga vita dei veri maestri che insegnano i veri sentieri verso la cessazione della sofferenza, e andiamo a dedicarlo anche affinché il Dharma, il segno del Buddha, dimora per molto tempo in questa terra perché è una fonte di benessere per gli esseri. In essenza è questo. Grazie. E ci vediamo mercoledì. Quante sessioni abbiamo ancora? Una? Quindi mercoledì e dopo ci vediamo a settembre, giusto? Ok. Sì, devono essere riprogrammati, perché vado in Francia, quindi ci sarà difficile dalla Francia. Lo vuoi?